Un nuovo elemento di prova che dovrebbe riaprire il dibattimento sulle morti del petrolchimico di Marghera è stato proposto dal PM Felice Casson come nuova prova da far acquisire come atto processuale per il processo d'appello. Si tratta di un documento riservato che era stato richiesto più volte tramite una serie di rogatorie internazionali, ma che solo ora è stato finalmente rilasciato. È la prova dell'esistenza di un patto segreto tra le multinazionali della chimica europee e americane che si erano accorte dell'effettiva cancerogenità del cloruro di vinile, ma avevano deciso di tacere per continuare a produrlo. Il documento in questione è l'impegno da parte della Dow Chemical di aderire al patto, ma identici documenti dovrebbero essere in possesso di altre aziende, compresa la Montedison. Potrà influire sulle sorti del procedimento di appello che era in corso, potrà ribaltare la sentenza. La prima fase si è conclusa male, con la soluzione piena dei 28 eccellenti imputati, ai quali era stata attribuita la responsabilità di aver ucciso finora 157 persone, oltre ad aver irreversibilmente inquinato ampie aree della laguna di Venezia. Tra le motivazioni della difesa c'era quella che i responsabili non erano a piena conoscenza dei fatti, ma non era vero. I primi risultati scientifici relativi alla cancerogenità del cloruro di vinile li aveva infatti effettuati Pierluigi Viola, medico della Solvay di Rosignano, nel 1967, e altre ricerche erano state pubblicate negli anni successivi, fino a quando, nel 1970, era stato affidato direttamente dalla Montedison all'oncologo Cesare Maltoni il compito di verificare i dati e determinare gli effetti sull'uomo. Questi dati erano in circolazione, non erano segreti, ma nessuno ne parlava. Venivano tenuti in un secondo piano, relegati a materiale solo per pochi esperti. Il resto è una partitura interessante che si ripete anche oggi. Omertà, cancellazione delle prove, minimizzazione dei risultati scientifici, infinite richieste di accertamento dei risultati, discredito del valore scientifico dei ricercatori. Sono strumenti che vengono utilizzati da sempre per fare in modo che la popolazione e i lavoratori non si oppongano a produzioni inquinanti e dannose. Nessun giornale parlava di queste cose, tranne l'Unità che nel 70 denunciò la pericolosità, salvo poi a distanza di 20 anni tentare di screditare Bortolozzo, l'operaio al quale dobbiamo le denunce e il processo contro l'Enichem, forse perché metteva a rischio i posti di lavoro a Marghera. L'acquisizione del documento sul patto segreto potrebbe influire molto. Resta il fatto che la soluzione non può limitarsi solo alla scoperta di questo documento oppure alla denuncia dell'ennesimo reato, quello di aver fatto finta di non sapere volutamente e consapevolmente. Ma perché queste cose non possano più accadere, la soluzione è nel fare in modo che tutti in futuro possano sapere perché l'informazione continua a circolare ancora e, per esempio, per quanto riguarda dalle tecnologie nuove o altre forme di produzione, dalle OGM alle nanotecnologie, abbiano il diritto di mettere un freno.